Ho suonato il campanello, ma nessuno ha risposto. Meglio così. Ho girato i tacchi e sono tornato a casa. Perché rivivere non vuol dire ripetere. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:05 minuti di un martedì qualunque, il 31 maggio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Avevo 18 anni. Frequentavo il quarto anno del liceo. A scuola ero bravissima. Mi allenavo tutti i giorni allo stadio con la mia squadra di atletica e la sera uscivo. Spesso rientravo a notte fonda, dopo le serate in discoteca. I ragazzi mi piacevano, avevo amici e la mia vita mi piaceva. O quasi. Mancava il cibo a renderla normale, perché io non mangiavo. Non mangiavo praticamente niente da 3 anni. E a nulla servivano gli psicologi o i miei compagni di classe che mi rimproveravano di avermi conosciuta in un modo e poi di avermi vista trasformata in una secca. Troppo secca. Le urla di mia madre, l'indifferenza di mio padre. Un giorno a scuola, nel bel mezzo della spiegazione di matematica, inclinai leggermente la testa sul lato destro, sempre più verso il basso, fino ad avvicinarmi così tanto a terra da abbandonare la sedia su cui ero seduta. Con un tonfo sordo mi accasciai al suolo, priva di sensi. Quando ripresi vagamente conoscenza, capii quello che era successo. Uno svenimento improvviso, breve. Venne mia madre a prendermi a scuola e per un po' di giorni stetti a casa. Quando tornai, la mia prof di filosofia mi fece chiamare e andai in sala professori. Lei mi portò via di lì. Ci sedemmo lungo un corridoio piuttosto mal illuminato, lontano dalle altre classi, dai professori, i bidelli, i compagni. Lei era la mia professoressa di filosofia. Non era un'amica di mia madre o una parente. E questo strideva con quell'improvvisa situazione di confidenza. Si sedette di fronte a me e con lo sguardo di una mamma apprensiva ma tenace iniziò a parlare. A dirmi qualcosa che aveva a che fare con i campanelli di allarme, quelli che il corpo manda quando noi ci rifiutiamo di ascoltarlo. Poi con un tono quasi accorato mi disse che io ero bella. E me lo disse come se volesse convincermi di qualcosa alla quale io non volevo credere. Lo ripeté un paio di volte. Parlò di bella con la B maiuscola. Mi fece impressione sentire la mia professoressa così lontana, inavvicinabile, severa, parlare in quel modo e prendersi così cura di me. Quel giorno pensai, devo averla combinata proprio grossa. Mi mise a piangere e tornai in classe. Ecco, quella professoressa forse non mi salvò la vita, ma fu grazie a lei che io iniziai a salvarmela. Veronica. Oggi si parla di questa cosa qua. Questa cosa qua non l'ho scritta io, ovviamente. È un messaggio che mi è arrivato da un'ascoltatrice. Mi è arrivato sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, e Veronica è un nome inventato. Però si parla di quella volta in cui qualcuno, in maniera figurata, o anche no magari, in maniera proprio fisica, vi ha salvato la vita. 800240024 per chiamare in diretta, oppure per mandare un sms, il numero è un altro, è 349-238-6666. Oppure invece siete stati voi a salvare la vita di qualcuno. Adesso vi leggo i messaggi che sono arrivati, che oggi sono particolarmente belli perché sono proprio molto elaborati. Sono arrivati sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Sono molto elaborati perché in questo caso le persone che hanno scritto vogliono proprio raccontare nei dettagli com'è andata. E molti di quelli che hanno salvato, ma molti di quelli che sono stati salvati, sono racconti che hanno a che fare con l'acqua, il mare, la piscina, quella roba lì che non è, diciamo, il posto naturale in cui noi dovremmo stare. Ve ne faccio subito un esempio. Eccoci qua, Elena. Eravamo al Ticino, tutti ragazzini. Per raggiungere la spiaggia che ci piaceva dovevamo attraversare un pezzo di fiume apparentemente innocuo. Io mi sono sbilanciata perché stavo perdendo una scarpa e l'unico che non sapeva nuotare si è buttato per salvarmi. Grazie Marco. Poi ancora, Loredana, avevo 6 anni, era estate. Io, facciamo una cosa, dammi una base un po', ti faccio il trappolone Rudy, lo so. Una base un po' tipo Ultimo Minuto. No, Ultimo Minuto no, tipo Suspense, un po' la Barisoni, ce l'abbiamo? Tipo che la borsa sta crollando e c'è il Suspense? No, niente. Vabbè, la leggo senza niente, attenzione, Bonini e Cantadori di là nel panico. Intanto 800240024 349-238-6666. Gente che salva, eccola qua. Gente che, mamma mia. Brr, me la fa ripartire un secondo perché l'ho sporcata. Benissimo. Avevo 6 anni, era estate. Io, mie sorelle e altri amichetti stavamo giocando vicino alla fontana nel cortile di casa nostra. Una casa colonica con un grandissimo cortile e altrettanto grande fontana, attorno alla quale ogni giorno si riunivano minimo 10 bambini a giocare. Non so come, ma ci sono finita dentro. Mia sorella prontamente mi ha presa per le gambe e mi ha tirato fuori. Il problema però non era quella, era non farlo sapere alla mamma che non era in casa. Quindi mi ha portato in casa e ha cominciato ad asciugarmi tutta, non solo i capelli, con il phon. Dopo mezz'ora, tutto era tornato come prima, pronta per uscire e tornare nuovamente a giocare. Grazie Rudy, grazie Tiziano. 800240024 349 238 6666. Oggi si parla di quella volta lì, quella volta in cui vi hanno salvato la vita oppure l'avete salvata voi. Ripeto, in maniera fisica prendendo per i piedi, oppure in maniera figurata prendendo per i capelli. Poi volevo leggervi un attimo questa mail che mi è arrivata, visto che sapete che c'è questa serata, non ve l'ho detto? Ah, ve lo ripeto, il 23 di giugno c'è una serata in cui io semplicemente ripercorro tutta la storia di Io Sono Qui, tutta la stagione in un'unica serata. È un live, è alle 9, è qui, è nella sede del Sole 24 Ore, l'ingresso è gratuito, purtroppo non sono accettati i bambini, o meglio i minori. Per partecipare basta che mandiate una mail a iosonoqui@radio24.it scrivendo nell'oggetto 23 giugno, così sappiamo a cosa vi riferite, e poi nel corpo della mail mi scrivete semplicemente quanti siete, i nomi dei partecipanti. Stamattina ho ricevuto questa mail di Stefano che dice: ciao Matteo, nell'oggetto c'era 23 giugno. Ciao Matteo, nella settimana del 23 di giugno avrò la moglie al mare, pertanto io ci sarò. Confermo per una persona, Stefano Pozzi. Puntata preferita? Ah, giusto, perché vi ho chiesto anche qual è la vostra puntata preferita, perché sto selezionando le migliori o quelle che preferite di tutto l'anno. La mia puntata preferita è quella in cui sei nato a Procida con la lettera, che poi fortunatamente ti sei tenuto in tasca. Ciao Stefano. E poi c'è un PS. Sarei venuto anche se mia moglie fosse stata a casa, Non reputarti una seconda scelta. Allora Stefano, non si fa così. Cioè, se tu dici a uno non reputarti una seconda scelta, io è da quando l'ho letta che mi reputo una seconda scelta. E quindi a questo punto facciamo così: tu vieni con qualcuno, anche con tua cugina, e dimmi che è tua moglie e dimmi che l'hai portata apposta, così io non mi sento una seconda scelta. Io sono qui, @radio24.it, scrivete 23 di giugno e in quanti siete. La serata sarà, guarda caso, il 23 di giugno alle ore 9. Ci saranno i racconti della stagione, ci saranno tutte le persone che hanno partecipato a questo programma, ci saranno le vostre foto e anche qualcosa in più. 800240024, oppure mandate un SMS al 349 238 6666, perché oggi si parla di salvare la vita. Il weekend che è appena passato l'ho trascorso a Procida. Ci sono andato perché volevo ricordare il mio viaggio per andare a trovare Agata e Vincenzo, il viaggio che mi ha fatto conoscere Nathalie. Non sapevo nemmeno se i due sarebbero stati in casa. Non ho avvertito nessuno. Il mio era un viaggio in un luogo, non era un incontro con delle persone. E quindi il volo, l'aeroporto, il taxi, poi il molo Beverello, il mare e alla fine l'isola, con il carcere, i cani randagi, le scogliere a picco, le strade così strette da non farci passare due macchine. Era tutto uguale, però era pure diverso. Sole, persone, profumi, colori. E poi non avevo una missione da compiere, non avevo una lettera da portare. A dire la verità non sapevo nemmeno io che cosa ci stessi a fare. L'isola è molto più viva di quando ci sono stato a novembre. Ci sono turisti di ogni parte del mondo, tantissimi napoletani che non vogliono rinunciare a un tesoro che è loro e di nessun altro. E poi inglesi che mangiano il gelato come se fosse il primo della loro vita. Americani che strabordano dalle piccole seggiole delle pizzerie. Giapponesi che seguono il solito ombrellino alzato. Tedeschi che cercano sandali locali. Poi ci sono i russi, che li riconosci dal modo in cui camminano. Sono alti, sono molto sicuri di sé. E poi le donne che li accompagnano sono appariscenti, sono giovani e piene di anelli e di collane. Io avrei dovuto prendere il minuscolo autobus che mi avrebbe portato a casa di Agata e Vincenzo, invece sono sceso al porto. È il posto meno popolato dell'isola, quello dove respiri l'aria più dolce, dove senti il rumore del mare. E poi ci sono i pescatori, che aggiustano le reti con un ago e con il filo, come si è sempre fatto. Ce n'era uno in particolare che ha attirato la mia attenzione. Forse per la carnagione, che era un po' più chiara degli altri, o forse perché indossava una camicia bianca come la mia, non lo so. Però mi sono avvicinata a lui e gli ho chiesto com'era andata la giornata. E lui, in un perfetto dialetto bolognese, mi ha detto che non era andata mica tanto male, sai. Che coi pesci è così, a volte sono stupidi e a volte ti fanno stupido te. Quando l'ho sentito parlare ho capito che sarei rimasto lì. Mi sono seduto e gli ho chiesto che cosa ci facesse un bolognese a Procida a pescare. Lui mi ha sorriso e mi ha chiesto che cosa ci facesse un milanese a fare domande alla gente che lavora. È stato simpatico, abbiamo cominciato a chiacchierare. Io avevo 2 lattine fresche di Coca-Cola e gliene ho offerta una. Lui ha detto che ne aveva proprio bisogno, perché era sveglio dalle 5 ed era un po' stanco. E poi il sole, sai, anche se hai il cappello in testa picchia. Mi ha detto che stava finendo il lavoro, ma che voleva ancora uscire. E se volevo, potevo andare con lui. Tanto non ci si allontana dalla costa, si va a Totani. Piacere, Matteo, gli ho detto. Lui mi ha guardato e mi ha risposto: piacere, Umberto. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once. Che anche se non c'è la vela, una barca è sempre una barca. E starci sopra a guardare Umberto che calava le reti e faceva il suo lavoro è stato un piacere. Umberto si è rivelato un'attrazione turistica nascosta che solo la fortuna gli aveva fatto trovare. Mi ha raccontato della donna che l'ha portato qui, quella che poi è diventata sua moglie, una procidana conosciuta a Roma durante un raduno dei Papa Boys. Che però nessuno dei due era un fervente cattolico in realtà, però avevano usato l'occasione per fare del turismo in compagnia. Mi ha raccontato di come ha imparato a fare il pescatore e di suo figlio piccolo. Che i procidani sono gente aperta, anche se sono isolani. E poi mi ha detto che però lì la vita è faticosa, perché anche quando ti va bene, non è che prendi così tanto da farci campare tutta la famiglia. Però lui era fortunato, perché sua moglie aveva una piccola casa di proprietà che le aveva regalato suo padre. E poi mi ha detto una cosa molto bella. Mi ha detto che lui, qualsiasi cosa succeda, sarà sempre contento. E io, che non sono esattamente di quella famiglia di ottimisti, gli ho chiesto come faceva. E lui mi ha risposto: perché ho salvato la vita a mia sorella. Ecco, lì mi ha raccontato l'episodio più importante della sua vita. Quello che tutti i giorni lo fa sorridere. E mi ha detto più o meno così. Avevo 10 anni, mia sorella 1. Era piccolina, stava sul seggiolone. Noi vivevamo vicino a Bologna e i miei genitori quel giorno erano fuori. Stavamo con la nonna. Eravamo lì a mangiare le patate in padella, insieme alla carne. A un certo punto mia sorella diventa tutta rossa. Mia nonna, che la stava imboccando, si è fermata, e anche io. Noi pensavamo che stesse per fare la cacca e invece aveva gli occhi spalancati e muoveva tutte le mani. Le era andato qualcosa di traverso. Mia nonna le parlava tutta preoccupata, come se potesse chiedere al boccone di uscire da solo dalla gola. E io, che non ne sapevo niente, ma che non potevo mica stare lì fermo a guardare mia sorella che moriva, ho preso mia sorella dal seggiolone, l'ho girata a testa in giù, tenendola per i piedi, e poi l'ho scrollata come un tappetino sporco. E intanto piangevo disperato, e la trattavo come se fosse una bambola, scuotendola forte, finché finalmente abbiamo visto qualcosa che le usciva dalla bocca. L'ho rimessa seduta, e lei ha ricominciato a respirare. Si era spaventata molto, ma non lo so, forse perché era piccola. Dopo 2 minuti ha ricominciato a mangiare, come se niente fosse. Anche mia nonna non ha fatto troppe scene e ha ripreso a dare le patate. Io invece sono andato in camera a piangere, perché avevo avuto così tanta paura che non sapevo cosa fare. Però poi, dopo, quando ho finito, non sono arrivati i miei e tutto è tornato come prima, ho pensato che se non avessi fatto così, forse mia sorella non ci sarebbe più. E allora da quel momento mi sono sempre sentito così forte e sereno che posso affrontare qualsiasi cosa. E la vita è sempre bella, perché la cosa più orribile che poteva capitare non è successa. E solo per merito mio. E allora nessun problema mi fa paura. E non è che sono scemo, eh. Sono solo un po' fortunato. Ecco, mi ha detto così Umberto. E stare con lui è stato bellissimo. Non abbiamo pescato niente, però abbiamo atteso il tramonto in mare. Alla fine io l'ho salutato e me ne sono andato in albergo. La mattina dopo mi sono deciso ad andare a trovare Vincenzo ed Agata, senza troppo pensarci. Ho suonato il campanello, ma non ha risposto nessuno. Meglio così. Ho girato i tacchi e sono tornato a casa, perché rivivere non vuol dire ripetere. You look like a perfect fit from the ranks of the freaks who suspect they could never love anyone except the freaks who suspect they could never love. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce, dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, nella sede del Sole 24 Ore di Milano, io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Non sono ammessi i minori. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Ferragosto di 5 anni fa, siamo tornati qua, siamo tornati a salvare la vita, o a essere salvati. Ferragosto di 5 anni fa, Forte dei Marmi, sono stato male in acqua, mi sono svegliato praticamente sull'ambulanza. Grazie al bagnino, l'unico ricordo, l'acqua grigio scura. Ho un conto in sospeso con quel mare e ci torno tutti gli anni. Ciao Maurizio. Non so se ho salvato la vita a qualcuno, forse no, più semplicemente gli ho trasmesso il bello del vivere. A Cortina, sciavo da solo nella nebbia, fuori pista, si andava magnificamente, ad un certo punto incontro un ragazzo, mi chiama e mi chiede dove siamo. Ci penso un attimo, lo guardo e gli dico: sai che se non mi fermavi cadevo nel burrone? Un salto di 200 metri. 800240024 349-238-6666. È soprattutto acqua, eh? È soprattutto acqua, nuotare, mare, piscina e lago. Facciamo dei bei corsi di nuoto collettivi. C'è però un altro bel racconto che mi è arrivato proprio oggi sul profilo Facebook, per il quale però ho assolutamente bisogno di quella base lì. Esattamente quella che... Ne mettiamo una meglio? Mettiamone una meglio, vai. Cos'è sta roba? Questa qui? Ma no, ragazzi, no. Mettiamone una meglio. Suspense, per piacere, quella di prima. Eccola qua. Due anni fa. Dove? Non lo dico. Gruppo di ragazzini delle elementari molto numeroso. Stiamo scendendo dal secondo piano al piano terra. Loro ridono, scherzano e non ci ascoltano. Io ho 20 anni, apro le file. Li stiamo accompagnando giù. Mi sporgo con la testa e guardo in alto. L'amico che è con me fa lo stesso. Grido qualcosa tipo: forza, non urlate, muovetevi, andiamo giù. Un piano più su vedo però che un bambino sta per sedersi sul corrimano per scivolare giù. Urlo qualcosa anche a lui, ma non mi sente. Perde l'equilibrio e cade nella tromba delle scale. In un tempo infinitamente piccolo, il mio amico lo afferra per una gamba mentre sta cadendo e lo tira su. 800240024 349 238 6666. Sai che questa base fa sudare anche me mentre la leggo. E poi è arrivato questo messaggio qua. Questo messaggio qua che è un messaggio di una ragazza che a differenza degli altri non ha molta suspense. Per questo che infatti non serve la base. Cioè non c'è gente che sta negando, non c'è gente che sta cadendo da qualche parte. C'è semplicemente qualcuno che si sta addormentando. Però preferisco farla raccontare da lei. Pronto Raffaella? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui innanzitutto. Sì. Senti, raccontami cosa è successo esattamente. Facevi l'università ed eri a Roma, giusto? Sì, in realtà facevo un master, facevo uno stage all'Enea ed ero a Roma, in questa casa, che ne so, dell'inizio del Novecento. Quartiere San Giovanni mi hai scritto. Sì, San Giovanni. Era una di quelle case, ecco, poi adibita anche per gli studenti, con la cucina così piccola che quando ti sposti magari muovi le manopole del gas non te ne accorgi. Cioè, nel senso che le tocchi perché è troppo stretta la cucina? Perché è troppo stretta, sì. E quindi è successo. successo che magari ho spostato, no? La manopola del gas che si è aperto e non ci siamo accorti io e la mia amica. In due eravate? Sì, in due. Ci sentivamo così un po' stanche, ma è normale, ci alzavamo prestissimo la mattina. Certo, poi, con dosi massicce di gas nell'aria, chiunque si sentirebbe stanco. Sì, poi mi ha chiamato il mio fidanzato e lui mi dice: Raffaella, ma ti sento un po' stanca, un po' spenta, che c'è? Ti ha chiamato dalla Sicilia, giusto Raffaella? No, dalla Puglia. Ma tu sei pugliese? Io sono pugliese. Ok, scusami. Sono della provincia di Bari, sono di Ruvo. E tu dicevi, no, sto bene, sembravi fatta, però... sto bene, sì, ho solo un po' sonno. E quindi niente, chiudo la telefonata e siamo là sui letti a guardare la TV finché non sentiamo un rumore e poi sentiamo che suona il campanello. Così un po' senza voglia mi alzo, vado lì ad aprire la porta e la signora, i cui contorni proprio mi sfuggono, è proprio sfocato il profilo della signora, mi dice: ma è di qua che viene il gas, che viene la puzza del gas? E quindi ci rendiamo conto che avevamo lasciato aperto. Cioè tu sei andata in cucina e c'era proprio il gas completamente aperto? Sì, aperto, sì. Scusami, ma però non capisco come tu non riuscissi a sentire la puzza del gas. Perché era tutto chiuso, cioè c'eravamo appena a poco assuefatte, quindi c'era proprio non riuscivamo più a distinguere, sì. Quanti anni avevi, Raffaella? E quanti anni avevo? 28. E quanti anni hai adesso? 39. Quanti ne hai, scusami? 39. 9. Magnifico, 9, 39, non 39. Lo sapevo. Senti, ti ricordi il nome di quella signora? No, non la conoscevo. È una sconosciuta. È un ringraziamento però, che così cade un pochettino nel vuoto, però la ringraziamo comunque. Magari sta sentendo. Magari. Raffaella, io ringrazio te e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. Ciao, grazie. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo in montagna. Non è alta montagna, è una montagna quasi collinare, premontagna direi. Ho detto montagna 5 volte nel giro di 2 secondi. Ci sono le nuvole sparse, c'è il cielo azzurro ed è tutto verde, probabilmente è primavera. Ci sono piante, prati, sembra quasi un enorme campo da golf. Non so, potrebbe essere la Svizzera, ma non credo sia la Svizzera. Cristina Pulga, 57 anni. Io abito a Roana, un piccolo luogo di montagna, con l'aria pura, le rondini e senza zanzare. E qui ci sono tanti concerti e altre cose culturali. Sono contenta perché li organizzo io. Ecco, io sono qui. Niente, grazie mille a Cristina, non avevo capito niente come al solito. È l'altipiano di Asiago, immagino, quindi, essendo Roana. Io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandare le vostre foto. C'è però un altro messaggio, lasciamo stare con la base, perché preferisco così, che però è molto bello, me lo scrive Domenico. Imperia, 2 gennaio 1976, il giorno in cui sono nato. Sono nato prematuro di 7 mesi, pesavo poco meno di 8 etti. Sono stato trasferito al centro neonatologia dell'ospedale Gaslini di Genova, dove il professor Giovanni Serra si è preso cura di me e in incubatrice per 4 mesi mi ha fatto sopravvivere. Lo scorso dicembre, dopo quasi 35 anni, mi sono recato al Gaslini e ho conosciuto il professor Serra, il mio salvatore, e gli ho detto finalmente grazie per l'ottimo lavoro svolto allora. La cosa divertente è che Domenico mi ha mandato una foto e l'ho pubblicata sul profilo Facebook, che è Matteo Cacci, che sono qui, e c'è lui abbracciato a questo professore, che è un signor anziano con i capelli bianchi e con la faccia allegra. Qualcuno mi ha scritto anche, ne avevo già parlato l'altra volta, di questo libro di Chuck Palahniuk che si chiama Soffocare, che si basa proprio sul fatto che quando le persone ti salvano la vita hanno come un debito nei tuoi confronti, si sentono in dovere di accudirti proprio perché ti hanno salvato la vita. E la storia in quel caso è questo tizio che finge di soffocare per farsi mantenere banalmente da persone ricche che lo salvano. Quella però è un'altra storia. 800240024 349-238-6666. Isola di Gozo, Malta. Pomeriggio di un giorno di novembre, ancora caldo. Prendo il sole su uno scoglio, mi gusto un panino, ma c'è un cane randagio che non mi dà tregua e non capisco cosa voglia. Stanco del suo lamento, salgo su in paese. Giusto in tempo, lo scoglio era già sommerso da onde violente. Quel randagio mi salvò la vita. Io, che non amo i cani, conservo una sua foto. Igino da Roma. Andiamo però a sentire... dov'è? Carlo, dalla provincia di Bergamo. Pronto, Carlo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, grazie mille per essere qui, Carlo. La tua storia mi ricorda un po', io ho fatto una roba simile alla tua, solo che invece col fil di ferro facevo schiacciare le monete sui binari del treno, quando passava il treno. Anche. Le 5 lire. Ok, perfetto, i deficienti devo dire, non mancano mai, non mi sento solo quantomeno. Però in quel caso mi scrivevi, non erano monete, erano il filo di ferro. Sì. Tu lo lasciavi sui binari per farlo schiacciare con le ruote a cavallo dei fili di ferro, a cavallo dei binari, e poi si aspettava che passasse il diretto di turno e che lo appiattisse, insomma. Certo. Solo che questi diretti passavano a velocità sostenuta, poi io avendo circa 7-8 anni all'epoca, sì. Praticamente venivo quasi risucchiato e non riuscivo a staccarmi perché mi piaceva quella sensazione di risucchio. Solo che a un certo punto è arrivato sto casellante che mi ha acchiappato veramente per la collottola e mi ha dato un paio di ceffoni di quelli galattici proprio. Senti, non ho capito, venivi risucchiato ma dallo spostamento d'aria, intendi? Esattamente. Ah, ok. Esattamente. Ok, ma perché tu eri giù, eri proprio lungo la massicciata? Ero attaccato al treno. Praticamente ero lì a un metro dai binari. No, ho capito, ma non eri sulla banchina, eri sulla massicciata. No, no, erano proprio binari in mezzo alla campagna. Ah, perfetto, era libero nella campagna. Vedi, perché non sapevi che anni erano? Ti dico che sono del 63, quindi ah, okay. Fine anni 60. Non avendo internet e non stando in casa tutto il giorno a giocare ai videogiochi, succedevano queste cose. Quindi possiamo ufficialmente dire che i videogiochi e Facebook salvano la vita? Assolutamente sì. Carlo, grazie mille, buona giornata. Okay. Ciao Matteo. Ciao, grazie ancora. Andiamo a Biella da Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao Matteo. Come stai? Benissimo, grazie. Sto lavorando, se ti vuole, se lavoro. Che lavoro fai, Maurizio? L'autista, camionista. Che camion hai? Ho un Mercedes 1320 e lungo 12 metri. 12 metri, quindi è un camion... Una motrice. Una motrice, ma c'ha un clacson potente, me lo fai sentire? Sì. Ammazza, okay. Questo è il rumore all'interno della cabina? Sì, sì, all'interno. Senti, raccontami di quando hai salvato 4 persone. Guarda, lì è una cosa mi ricordo tutta la vita. Io abitavo in una frazione di Biella, Chiavazza, mm-hmm. L'ultima casa del paese, che dà su un fiume, sì. Cioè davanti a me c'è il rettilineo, la curva e c'è il ponte. La sera dell'82, il giorno in cui si cambia l'ora legale, non so se era marzo o aprile, sì. Comunque proprio la sera, ero davanti alla finestra, spostavo l'orologio, mia moglie incinta, proprio l'ultimo mese, dormiva, mi vedo un classe 128 di ragazzi che arrivano dalla discoteca alla peschiera e tirano dritto e volano giù dal ponte. Wow. Erano in 5, l'ho saputo dopo, io sono rimasto impietrito, sono corso giù, fuori c'era nessuno, attraverso il ponte, perché dalla parte dove sono caduti non si poteva scendere, non c'erano i telefonini, poi ce n'era pochissimi allora, attraverso il fiume che mi stava portando via con l'acqua fino al collo al buio, non l'avrei mai fatto io quello, te lo giuro. Arrivo dall'altra parte. Che ore erano, scusami? Allora era mezzanotte. Ah, era mezzanotte. Mezzanotte, cambiavo l'ora per andare a letto, sì. Il giorno dopo c'era l'ora nuova. E arrivo lì, e la macchina era semisommersa, si è rovesciata. Sì. Stava andando un po' più giù perché c'era la corrente, tiro fuori un ragazzo, era già mezzo fuori, tiro fuori altri due, i due davanti erano morti, e poi mi hanno dovuto portare via di peso io perché mi tremavano le gambe, non mi hanno potuto fare i pompieri. La cosa buffa, ti voglio dire solo questo, sì. I vicini di casa affacciati al ponte, che dopo sono arrivate l'ambulanza, hanno visto me, un mio vicino ha avuto la bella idea di suonare il campanello di mia moglie, Maurizio è andato giù dal ponte, mia moglie è svenuta. Cose abortendo, sì. Avrei buttato giù lui. Beh, immagino. Maurizio, li hai più risentiti quei ragazzi? No. Purtroppo di quei due davanti che erano morti, io di più non potevo fare. E non so, io so solo che ti dico solo questo: eroi non sono un eroe, però una cosa così non l'avrei mai fatta. Lo immagino. Maurizio, per tirarci un po' su, dacci un altro colpo di clacson. Ok, aspetta, che accendo. Perché mi sono fermato col Bella. Okay. Ciao Maurizio, grazie mille, buona giornata. Ciao. Andiamo e chiudiamo con Carlo dalla provincia di Pesaro Urbino. Pronto Carlo? Buonasera Matteo. Ciao, buonasera. Anche tu hai salvato 4 persone, però si parla di acqua qua, giusto? Sì, sì. Alta Brianza, Lago del Segrino, sì? Sulla destra, giornata di sole, io sono con mia moglie, il bambino allora era piccolo, il papà dorme, la mamma aveva un paio di zotteroni, era messa sulla spiaggetta, sì. I bambini, 2 o 3 non me li ricordo, camminavano con l'acqua al ginocchio, solo che cosa succedeva? C'era uno strapiombo a 50 metri, con delle liane lunghissime che arrivavano a 6-7 metri, Io quando ho visto la scena dei bambini che erano in confusione mi sono buttato, naturalmente a prendere le caviglie di loro e buttarli sopra dove l'acqua era ai 50 centimetri, ho fatto una fatica dall'accidente, anche perché mi sono trovato imbrigliato da queste liane lunghissime, color bruno scuro. Ma per liane intendi alghe, scusami Carlo? Perché l'acqua, non so da dove veniva, si chiama Lago del Segrino, è tra Canzo e Asso, in alta Adrianza. Sì. Niente, in poche parole io mi sono buttato sotto, ho preso questi bambini e li ho buttati sopra dove finiva lo strapino. Sì, sì, sì, ho capito perfettamente. Senti, come è finita? I genitori ti hanno detto qualcosa? La mamma ha capito, si è buttata, però mi sono trovato un campanello, perché allora si usavano le gonne larghe, una campana di gonna sopra, ho preso per gli zafferoni bianchi, me li ricordo ancora, un paio di sandaloni, l'ho buttata sopra anche lei, e poi attraverso le liane mi sono alzato anch'io. Quando sono arrivato si era svegliato il marito, bestemmiando con comodo. Ha preso la moglie, i figli hanno preso il Mercedes, erano stranieri, e se ne sono andati. Vabbè, Carlo, insomma, alla fine... Con l'orologio partito, i vestiti bagnati e la giornata distrutta. Carlo, però ricontento, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Chiudiamo questa volta non con un racconto del racconto che vi racconta, ma col racconto di un salvataggio. Sharm el Sheikh, 8 anni fa. Io e la mia attuale moglie ci tuffiamo per l'ultimo bagno prima di tornare in Italia. Io so nuotare a malapena e per questo rimango sempre molto vicino al pontile, quello da cui ci si immerge per andare oltre la barriera corallina. Con maschera e boccaglio rimango sotto la superficie per ammirare lo spettacolo di quei meravigliosi fondali e i pesci coloratissimi. Grosso errore, perché così facendo non mi accorgo che la corrente mi sta portando al largo. Rialzo la testa, vedo che sono molto distante e cerco di riavvicinarmi, ma le mie braccia sono inutili. Silvia nota la mia difficoltà e prova a chiamare aiuto, ma il vociare attorno a noi rende vane le nostre urla. Le mie braccia sono stanche, sempre più stanche. Mi tolgo il boccaglio per prendere fiato, ma una piccola onda mi fa bere. Panico. Provo a fare ampi gesti al bagnino, ma c'è un'imbarcazione ormeggiata lì davanti e copre la visuale. La vedo sempre più dura. Per fortuna Silvia veniva da mesi di nuoto in piscina, giusto per tenersi in forma. E allora comincia a nuotare. Nuota controcorrente. E dopo 5 minuti interminabili, 5 minuti in cui rimango a mollo con maschera e boccaglio, vedo arrivare il bagnino, a bordo di una canoa. Mille pensieri mi correvano per la mente. Pensavo che non volevo morire lì, lontano da casa. Pensavo che volevo rivedere la mia sorellina. Avevo il cuore a mille. Poi il sollievo di quella corda lanciata. E un lento e faticoso ritorno a riva. Abbraccio finale al bagnino, ma soprattutto al mio grande amore che scoppia in un pianto liberatorio. Posso proprio dire che è la donna della mia vita. Lo possiamo dire anche noi, grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Fabio Cantadori e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?